intimità gli ho le vene. Per entrare in contatto con un altro mondo, anche se non mi conviene. Dalla mia branda guardo chi mi comanda e smetto di fare l'onesto, altrimenti mi estinguo come un magnifico panda. Cambiamo stagione, cerco ancora il mio nome sulla carta d'identità. Lo so, mi sto scollando da questa realtà. Non mi raccontare un'altra volta le tue pene, non mi interessa, io mi sento bene. Oggi mi taglio le vene, tiro giù la pressione, sono un diavolo smorto con le scatole piene. Con la mia banda ogni tanto si sbanda, ti offro ancora una volta uno spettacolo standard. Voglio ritornare guaglione, svegliarmi, tirare, accappare senza sentirmi in prigione. Non mi sorridete, io non cerco simpatia. Non mi ascoltate, io non voglio compagnia. E ricominciare un'altra volta come viene, non mi interessa, io mi sento bene. Non mi ascoltate, io non voglio compagnia. E ricominciare un'altra volta come viene, non mi interessa, io mi sento bene. Mi sento bene. Mi sento bene. Mi sento bene. Mi sento bene.